baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. If you hear any noise, it ain't the boys, it's ladies now. Allora, iniziamo subito con le storie e i racconti della Lady Fest di quest'anno. Abbiamo qui in studio, qui con noi, le fantastiche ladies e avremo anche delle straordinarie ospiti che presenteremo più tardi. Intanto iniziamo con la storia della Lady Fest, un festival internazionale che piano piano sta avendo sempre più risonanza e piano piano si sta sempre più arricchendo. Ascoltiamo cosa ci hanno da dire le ladies su questo e vi lascio la parola. Ciao a tutte, buongiorno. Allora, la Lady Fest è un festival queer femminista totalmente autoprodotto. È stata organizzata per la prima volta ad Olympia negli Stati Uniti nel 2000 e immediatamente si è diffusa a macchia d'olio sia in America che in diverse città europee. Ogni anno, ad esempio, ci sono Ladyfest a Londra, a Madrid, a Lubiana, a Parigi, ma anche in tantissime altre città. Ad organizzare questi happening sono delle reti di donne che provengono da percorsi politici, artistici e culturali molto differenti. Ma sono tutte accomunate dal desiderio di comunicare attraverso linguaggi innovativi, sperimentali, le molteplici risorse dell'universo femminile anche i problemi che diciamo quotidianamente, che ordinariamente investono sia la vita che i corpi di tutte le donne. Costruendo degli spazi pubblici di divertimento e soprattutto di produzione culturale, tentiamo di veicolare quelli che sono i nostri contenuti che mirano a rovesciare degli stereotipi comuni che sono diffusi nella società contemporanea. Ora, a Roma la prima Lady Fest c'è stata nel maggio del 2009, dal 21 al 24 maggio, ed ha coinvolto numerose artiste, parlo di fumettiste, fotografe, videomaker, filmmaker, musiciste e via dicendo, ed ha attraversato diversi spazi occupati, il Forte Prenestino, Strike, La Torre e l'Isola Pedonale del Pigneto. Il festival ha avuto un successo notevole e parte dell'incasso è stato destinato alla ricostruzione del centro antiviolenza di L'Aquila. E bisogna dire che proprio questa collaborazione attivata con L'Aquila ha fatto sì che nel maggio del 2010 la Lady Fest e il 3:32 organizzassero un ennesimo happening proprio all'Aquila, nello spazio di Case Matte. E il tema del festival era la libertà e rivoluzionaria, che riprendeva due frasi che erano scritte sul primo manicomio che era stato costruito a Trento, e le due frasi erano: la libertà è terapeutica, la verità è rivoluzionaria. E appunto il tema della Ladyfest era quello di riflettere sulla riconversione in spazi sociali di vecchi ospedali psichiatrici e di ripercorrere un po' tutta l'analisi storica della follia da un punto di vista degli studi di genere. Quest'anno la Ladyfest ci sarà questo weekend, saranno tre giorni intensissimi dove diciamo ci sono diverse aree tematiche, dalla musica alle performance artistiche e al cinema. Ma non svegliamo troppo, andiamo piano piano e adesso ci andiamo ad ascoltare la prima canzone proprio di una delle artiste di questa Ladyfest che si esibirà il venerdì, ovvero il primo giorno, Lily Refrain. Thank you. allora ritorniamo qui in studio con le nostre ospiti e la prossima domanda è appunto: spiegateci bene questa 3 giorni delle Edifest, come si svolgerà, come l'avete organizzata e insomma cosa succederà, cosa vedremo. Sì, allora ciao a tutte, ciao a tutti. Dunque, l'edizione di quest'anno è stata pensata su 3 giorni anche proprio a differenza di quella del 2009, nel senso che si è scelto di tenere una stessa location, uno stesso posto in cui c'è anche la possibilità di campeggiare per chi viene da fuori o per chi si vuole vivere la Lady Fest insomma in tutto e per tutto, in tutte le attività, le iniziative che propone, anche per dare uno spazio diverso alla socialità, la possibilità di aggregare, di aggregazione tra le ospiti e le partecipanti, proprio per nell'ottica di comunque non solo aver attivato una rete ma di continuare a costruirla, per cui nella speranza e nel desiderio che si creino appunto anche nuovi progetti eccetera, per cui che la rete si moltiplichi e cioè il progetto continui ad essere replicabile altrove. Questo sarebbe bellissimo, nel senso che appunto come diceva prima l'altra lady il fatto che che il festival venga fatto ogni anno in un posto diverso e che si caratterizzi in modo diverso a seconda di chi lo fa è proprio appunto una caratteristica peculiare della Lady Fest, e quindi questo è il desiderio un po' di tutte. Il festival appunto durerà 3 giorni e sarà al centro sociale La Torre, che è nel quartiere di Casal dei Pazzi, nel parco dell'Aniene, che è un parco stupendo, molto suggestivo, in cui appunto il fatto di poter campeggiare anche è stato scelto ovviamente perché il posto lo permette, insomma. È un festival ricchissimo. Le attività e workshop incominciano fin dal mattino presto, quindi da venerdì fino alla serata di domenica. Ci sono appunto previste, diciamo che la giornata è divisa chiaramente in tre momenti: la mattina i workshop più tecnici, il pomeriggio si va avanti con i laboratori e con i tavoli di discussione, alle 19 inizia la proiezione di film fino alle 22, diciamo, in cui cominciano i primi DJ set di apertura, i primi live eccetera, fino all'una, dove c'è per il venerdì e per il sabato un'ospite straniera che abbiamo invitato, e poi se vogliamo più tardi insomma vi raccontiamo più nel dettaglio il programma. E poi verso le 2 incomincia il DJ set a chiusura, insomma. La domenica invece è pensata chiaramente anche come giorno un po' più di appunto non così fitto, non così intenso anche a livello di scelte musicali, e quindi avremo dalle 20 circa, sì, dalle 20 fino a mezzanotte l'una, tantissime ospiti che si esibiscono live senza amplificazione sostanzialmente, per cui appunto un'atmosfera molto più raccolta. Ho una domanda, sì, un po' per spiegare anche come è strutturato. Ci sono dei spazi permanenti, ci sono delle mostre, delle, sì, esposizioni, come è strutturato lo spazio, come l'avete pensato? Sì, allora, vabbè, oltre appunto a quello che succede sul palco, quindi principale a livello musicale, abbiamo sostanzialmente una zona, uno spazio che è quello del cinema, dove si svolgeranno tutte le performance e le proiezioni dei film, e poi c'è lo spazio della palestra, dove ci saranno altri workshop, e poi c'è tutta l'area esterna che appunto per essere valorizzata, dove ci sarà il campeggio e alcune performance che si svolgeranno appunto in modo randomico nell'esterno insieme ai tavoli di discussione. Uno spazio molto importante dedicato alle mostre, che possiamo già forse raccontare, che una, si chiama All Reds Girls, che è di Simona Pampollone, una mostra che vuole raccontare la squadra di rugby femminile del Cinodromo di Roma. E poi c'è una mostra che si chiama Trasformazione, a cura di Marzia X, e poi c'è un'installazione delle Toulette, che sono un duo di artiste bolognesi, e queste sono permanenti. In più c'è uno spazio Lady Baby, che a cui è stato dato molta importanza in questa edizione, che sarà bellissimo, che è proprio una proposta di anche proprio politica di un nuovo modello di genitorialità, non so come dire, per cui per dare la possibilità non solo ai bambini ma anche ai genitori di viversi, attraversarsi tutta una serie di situazioni, come possono essere le feste, come possono essere appunto momenti e spazi che normalmente li tagliano fuori, e questo è molto importante. Poi chiudo velocemente: ci sarà la ciclofficina, aperta il sabato mattina, e poi a tutti ovviamente daremo da mangiare, quindi c'è anche la trattoriola, che è la trattoria della torre, che appunto prevede di sfamarci tutti con una scelta attenta di cibo sostenibile, eccetera. Ma se volessimo leggere il programma tutto per intero, qual è il sito da guardare? Allora, il sito è il blog della Ladyfest, che è ladyfest-roma.noblogs.org, dove trovate appunto programma giorno per giorno, tutte le indicazioni per arrivare alla torre, che appunto non è facilissimo, ma è segnalato comunque sulla strada. C'è attivato un numero di infoline che vi possiamo anche dare a breve. Ci guardiamo dopo. Poi sì, eccolo qua. Allora, l'infoline è 327-377-2520. Allora, l'accesso al festival, forse questo è importante da dire, è a sottoscrizione libera tutti i giorni fino alle 20. Dalle 20 l'ingresso è a sottoscrizione 5 euro. Per chi volesse campeggiare, invece, il costo è di 30 euro per tutti e tre i giorni, incluso tutto chiaramente, cioè dai workshop alle serate al campeggio stesso. Questo. Poi ci sarà uno spazio per le autoproduzioni, per i banchetti, insomma è ricchissimo, e quindi è attraversabile in qualunque momento della giornata a seconda di quello che si vuole trovare, appunto. E allora, grazie, adesso continueremo con maggiori informazioni per questa tre giorni. Continuiamo con la musica, appunto, delle artiste del Ladyfest, con Nara Strabocchi, Tiger. Sunny outdoor, cloudy line, downtown, and it's rain again. Sunny outdoor, cloudy line, downtown, and it's rain again. Sunny outdoor, cloudy line, downtown, and it's rain again. Walking on the street, walking on the street, walking on the street, walking on the street, walking on the street, walking on the street, walking on the street, walking on the street. Tiger, tiger, tiger, we'll be right back. dopo questa tigerata di Nara Strabocchi, che ci allieta sempre con le sue performance, e sarà bello vederla live. E ricordiamo insomma che la Lady Fest è 16, 17 e 18 settembre, quindi siamo alle porte. E continuiamo la nostra trasmissione con un'invitata, un artista che è presente qua in studio, che ringraziamo subito, Alessandra Celletti, a cui chiediamo di raccontarci il suo ultimo disco, che un po', diciamo, di spiegarci la sua partecipazione alla Lady Fest, insomma, dici tu qualcosa. Eccomi qua. Sì. Intanto ciao e grazie di avermi invitato qua. Il motivo per cui sarò alla Lady Fest intanto è chiaramente questo, cioè che adoro partecipare a progetti in cui sento che c'è sincerità, entusiasmo e passione, e questo qua si sente chiaramente in questo festival, e soprattutto quando poi c'è proprio un elogio, diciamo, della libertà, cosa che per me è il valore che rimane sempre in assoluto il più importante, soprattutto per le donne, che poi oltretutto hanno spesso dovuto fare i conti con delle limitazioni piuttosto forti, insomma, sulla libertà. Quindi molto, molto, con molto entusiasmo e con molto piacere faccio parte di questo festival quest'anno. Inoltre devo dire, appunto, sta per uscire questo mio nuovo album, che si intitola proprio Crazy Girl Blue, quindi insomma sto benissimo a casa dei pazzi oltretutto e quindi insomma questi sono i motivi fondamentali. Ovviamente mi farebbe piacere partecipare a tutti i 3 giorni per seguire tutte le cose, di cui alcuni conosco, altri no. Conosco bene Giulia Anania e Lady Maru, che oltretutto è stata attrice in uno dei miei video, sì. Insomma, quindi mi fa molto piacere rivederla in azione. Sì, anche noi come attrice ci piace molto. Ci piace molto, infatti. E quindi probabilmente non potrò seguire tutti e 3 giorni, anche perché il giorno prima avrò le prove con Maurizio Mansueti, che per stravolgere un po' le regole mi porto con me. Infatti saremo io con un uomo, non una donna, Maurizio Mansueti, che suonerà. Un uomo senza parrucca? Senza parrucca, okay. Però ha i capelli abbastanza lunghi, quindi va bene. No, comunque è molto, molto, molto bravo qui, e ha collaborato con me nell'ultimo album. Suona oltretutto uno strumento che è veramente particolare, che è il theremin, che è uno strumento che sembra veramente magico, perché sembra risuonare il nulla, l'aria, insomma, le vibrazioni dell'aria. Quindi questo abbinamento tra pianoforte e theremin, oltretutto è la prima volta che lo sperimentiamo dal vivo, e siamo molto curiosi di vedere che effetto farà. E allora, prima di andare ad ascoltare il tuo brano, volevo farti una domanda, appunto, se effettivamente come musicista, insomma come donna, se durante la tua carriera hai avuto comunque delle limitazioni, o comunque ti sei forse imposta anche di più in quanto donna, insomma, com'è mescolare un po' queste due... Guarda, io di solito ho sempre abbastanza difficoltà a parlare di questa cosa, nel senso che poi io mi sono sempre considerato un essere umano, al di là del genere, per cui mi pongo sempre... né come donna né come, cioè mi pongo come essere umano, cerco almeno di farlo così, e per cui di farmi rispettare e seguire in quanto persona. Ovviamente spesso per una donna ci sono delle difficoltà, perché comunque appunto le sappiamo bene, però devo dire, a me non è mai successo di incappare in cose sgradevoli o cose che mi hanno bloccato, anche se poi mi rendo conto che magari i miei colleghi maschi hanno più successo o più facilità di fare delle cose magari, no? E questo quindi non so bene se è dovuto da un fatto di carattere o il fatto che siano uomini e io non lo so, però comunque io sono contenta di come sto andando avanti, di quello che faccio, quindi per me va bene così. Ok, no, e diciamo che dovrebbe essere così, no? Nel senso che è chiaro che le persone dovrebbero essere valutate come persone, poi a molte donne succedono molte cose, appunto come dicevi anche tu, però la Lady Fest per me è anche, diciamo, insomma, è anche uno spazio per, come si diceva prima, per valorizzare l'arte al femminile, proprio perché molte volte gli spazi sono limitati, e io penso che dare uno spazio completamente alle donne sia davvero, davvero importante, perché ci sono molte donne appunto che non riescono a prendere spazio, anche se sono delle artiste molto, che hanno molto valore e sono molto brave. Questo per me è una cosa che appunto si vedrà nella Lady Fest, però è chiaro che sarà tutto da verificare e da vedere. Quindi per questo invitiamo tutte e tutti. Tu, ricordiamo che tu ci sarai domenica. Domenica alle 22. Domenica alle 22. Intanto, per capire cosa scrivi e qual è la tua musica, ascoltiamo brevemente un tuo pezzo, che è Crazy Girl Blue proprio. E allora piano piano questa saletta si sta riempiendo, sono arrivate anche altre ladies internazionali che salutiamo. E intanto continuiamo con Alessandra, vogliamo continuare a porgli delle domande, visto che è qua, ce ne approfittiamo un pochino. Sì, io volevo fare una domanda ad Alessandra, nel senso che appunto oltre ad esibirsi domenica, porta alla Lady Fest un pezzo che ha composto appunto apposta per questa occasione e che non è mai stato eseguito prima, che si chiama Love Attitude. Esatto, è proprio composto insieme a Maurizio Mansueti e abbiamo deciso proprio di fare un lavoro appositamente per il Lady Fest, proprio per cercare di sottolineare anche l'importanza di questa partecipazione e l'avvio di questa nostra collaborazione. Appunto il pezzo è costituito di tre brani che formano una suite che è intitolata Love Attitude e ci sono tre momenti, appunto il primo Elusive, Desired e Bright, ed è proprio come un incontro amoroso può essere simbolico, però può essere anche semplicemente tra i nostri due strumenti, un tentativo proprio di far comunicare questi due strumenti che sono, diciamo, molto diversi, perché uno è acustico, l'altro è elettronico, però poi hanno anche delle affinità molto, molto suggestive. È come suonare un po' con un violino fuori dal tempo, un po', perché c'ha una voce, questo strumento molto particolare, potrebbe essere una voce lirica o uno strumento appunto ad arco, però ricorda anche un po' delle situazioni di fantascienza, per cui insomma è strano, è bello. Da cui esce anche proprio un'idea dell'amore molto, molto chiara, non so, io leggendola mi sono, sì, anche molto ritrovata, ho trovato molto potente, bellissimo. Non vediamo l'ora di ascoltarla. Eh sì, e poi ti rivolgo insomma un'altra domanda rispetto poi anche alla tua carriera, alla tua musica, che insomma ho letto vari siti che parlano di te e dicono insomma la tua capacità anche di variare su generi differenti. Insomma, ti volevo chiedere quali sono state le tue influenze, le tue ispirazioni negli anni. Sì. Ma diciamo che ho sempre seguito appunto molto liberamente, come dicevo, visto che questa è proprio la cosa che più mi sta a cuore, quello che sentivo volta per volta, per cui ho iniziato a suonare che ero proprio bambina, a 6 anni, stavo lì già col pianoforte, ho frequentato il conservatorio, per cui ho sicuramente una preparazione classica, però questo elemento accademico mi è sempre stato abbastanza stretto, per cui anche dal periodo del conservatorio, degli studi diciamo tra virgolette seri, ho sempre cercato invece di spaziare in tutti i generi, per cui ecco, mi è sempre piaciuto non pensare la musica classica come superiore a un altro genere e quindi di non fare mai gerarchie tra i generi musicali, per cui sicuramente mi piace la musica rock, moltissimo la musica punk, per cui vabbè, sicuramente nelle mie composizioni si sente l'elemento classico, però sono molto felice se si sentono un po' un miscuglio di cose che forse sono anche piuttosto indefinibili a questo punto, visto che c'è tutto un miscuglio random senza. Allora, noi insomma ti ringraziamo per la tua presenza qui e continuiamo appunto con anche altre artiste della Ladyfest che si svolgerà il 16, il 17 e il 18. Ricordiamolo sempre, sì. Alla Torre, e ascolteremo Cindy Wonderful o Wonderbar con Bad Tube Song. Olè. Take a go back. We can turn it. Allora, entriamo nel vivo del programma. Ci dicono che siamo troppo serie, ma noi oggi scegliamo di essere serie. E per questo iniziamo con il venerdì. Cosa succede il venerdì? Cosa succede la mattina? Perché stare lì dalla mattina? Allora, incominciamo subito col venerdì che è domani. Sì. E quindi iniziamo subito alle 11 con un workshop che è un workshop di VJing, che vuole un po' raccontare e cercare di trasmettere le basi, l'ABC, per quello che è possibile in tre ore, di quello che è appunto il VJing, che non ha niente a che vedere con MTV, come spesso ci chiedono, e niente, vuoi, appunto è diviso in diversi momenti, un po' una panoramica sul software che si possono utilizzare per fare il DJ set. Ci sarà un focus soprattutto su Modulate, che è il software che noi utilizziamo ma non prevalentemente. Molto importante, ci sarà un intervento direttamente da Minsk di Nikki, che è una delle fondatrici di Flexer, che è il software open source di VJing che permette di mixare immagini e suoni anche appunto non anche online, questa possibilità, dove è in corso il Live Performers Meeting, che è questo appuntamento europeo di appunto incontro tra videoartisti, VJ, eccetera, e quindi darà molta anche spessore a questo workshop con il suo intervento in diretta. E poi ci sarà la possibilità di creare delle clip, prepararle, imparare a tagliarle, quali sono gli strumenti, la compressione, il formato, eccetera, con anche la possibilità di fare VJ set direttamente durante le serate della Ladyfest, nel senso che appunto c'è una console che possiamo definire aperta, per cui invitiamo tutti a partecipare. Le iscrizioni sono ancora aperte, c'è una mail di iscrizioni a tutti i workshop che trovate sul nostro blog, che ripeto è ladyfest-roma.noblogs.org. La mail in particolare è iscrizione_ws@ladyfest-inventati.org. E questo per quanto riguarda il primo workshop. Esatto, poi invece gli altri? Poi subito dopo, anzi insomma questo workshop finisce alle 14, alle 15 subito dopo pranzo c'è il workshop che si intitola L'archivio tascabile, che è portato a Roma da in particolare Emanuela Schinina, che è una rappresentante del progetto Build Vexel, che è un progetto tedesco. Anche per questo workshop le iscrizioni sono ancora aperte, e sostanzialmente il progetto Build Vexel è un progetto interessantissimo di creazione di una piattaforma che va ad ospitare contenuti anche qua femminili e non solo. E come ok, mi suggeriscono se altre ladies vogliono intervenire, infatti, noi abbiamo e niente, quindi questo, e non solo, verrà presentato il progetto, un po' questo progetto che lo portano avanti di archivio di materiale video. Una selezione di questo archivio verrà proiettato sia il venerdì che il sabato dalle 20.30 alle 20 con una selezione di film. Dopodiché alle 16 invece abbiamo un workshop di bondage che è condotto da Dolcissima Bastarda. Purtroppo le iscrizioni sono abbastanza piene, vi invitiamo comunque a venire, nel senso che poi chiaramente la Ladyfest è attraversabile, però ecco, su questo il tetto massimo di iscritti è già stato raggiunto. Dolcissima Bastarda è un'artista rock stylist famosa nella scena underground romana e nazionale, e che ci appunto porterà nuovamente a scoprire l'arte del bondage. Mentre alle 19 passo la parola a un'altra Ladyfest, perché c'è una proiezione di un film. Alle 19 c'è la proiezione di un documentario spagnolo che si chiama Mi sexualità è una creazione artistica, ed è appunto La mia sessualità è una creazione artistica, e che ci spiega un po' quello che è la scena del movimento post-porno a Barcellona con tutte le protagoniste, e ci sarà con noi a presentarla la regista, che è Lucia Engagna. E questo documentario è davvero interessantissimo, specie se avete un sacco di dubbi e non sapete bene che cos'è il post-porno, cosa succede. Alle 7 di venerdì sera venite e abbastanza dubbi andranno via. Ok, finisco brevemente. Sì. Dopo la proiezione, appunto, abbiamo detto la selezione dei film del Build Vexel. incominciano i DJ set, incomincia la musica, c'è un DJ set di apertura di Fred Montgomery Piccolino, poi abbiamo alle 21.30 una performance di Claudia Padoan, e poi alle 22 abbiamo Elisa Gestri, alle 22.10 le Eyes Wild Drag, che portano uno spettacolo sulla manipolazione dei generi, insomma uno spettacolo di dragging, alle 22 King Kong Ladies, che è un reading di progetto Porno Strix con la partecipazione musicale di Donna Sonica, mentre alle 22.45 abbiamo un altro reading con accompagnamento musicale di Giuliana Nia e Marta Venturini, delle poesie di Francesca Genti, che è una scrittrice milanese che abbiamo la possibilità di sentire al telefono. Ora stiamo vedendo se riusciamo a chiamarla e farci raccontare da lei, che ha scritto questo libro che si chiama Poesie d'amore per ragazze kamikaze, che sono delle poesie potentissime che raccontano l'immaginario femminile, non solo, e crediamo tutte che insomma sarà una sperimentazione magica. Questo, faccio un piccolo inciso su come funzionano le collaborazioni, nel senso che poi abbiamo tanti ospiti che abbiamo chiamato apposta per questa edizione, tante artiste invece sono o perché sono romane o perché sono interne al progetto e quindi si esibiscono, ma in una chiave di ricerca sempre, comunque di cercare nuovi contatti, nuovi progetti. Questo è un esempio, perché Giuliana Nia e Marta sono lady, sono interne al progetto e quindi appunto hanno creato questa collaborazione con Francesca. Vado avanti, finisco la giornata, sì. Ok, alle 23 abbiamo la performance di Francesca Fini, che si chiama Self Portrait. Francesca poi l'avremo di nuovo la domenica per un workshop, una artista romana appunto che viene a esibirsi. Alle 23.30 la performance di Dolcissima Bastarda, Corpo in Musica, Atto Secondo. Alle 23.45 di Refrain featuring Elena Velena, che abbiamo ascoltato prima all'inizio della trasmissione. A mezzanotte e mezza Mara Strabocchi, che abbiamo ascoltato anche lei con Tiger poco fa. A luna Cindy Wonderful, che abbiamo già ascoltato. E dalle 2, come raccontavo prima, insomma, in DJ set abbiamo per il venerdì vengono a suonare Criminal KK e Magenta dalle 3. E allora questa è appunto la prima giornata del 16, venerdì 16, e adesso, siccome Mamma Madrona sta sempre un passo avanti, ascolteremo un artista che invece ci sarà il sabato, Ramide con Application Form. Thank you. adesso facciamo una prova, vediamo se abbiamo in diretta Francesca. Ci senti? Ciao, sì, ti sento. Ciao a tutti, ciao alla radio. Ciao Francesca. Ciao. Eccoci, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato i problemi tecnici. Siamo in diretta con Francesca Genti, autrice di poesie d'amore per ragazze kamikaze, che sarà, come abbiamo detto prima, presente alla Lady Fest con, appunto, con le sue poesie, accompagnata da Giuliania e Marta Venturini. E niente, Francesca, ti proviamo a rivolgerti un po' di domande. Sì, ma parlare più forte perché sì. Sento proprio lontanissimissimo. Sì, scusami. Non sento quasi niente. Ok, proviamo ad aggiustare anche questi problemi di audio. Mi senti meglio? Sì, okay. Sì. Ok, perfetto. Allora, la prima domanda è: cosa significa essere una ragazza kamikaze? Aiuto. Allora, una ragazza kamikaze, beh, semplicemente il titolo del libro è preso da un mio verso di una mia poesia che apre la raccolta. E penso che ragazza kamikaze possa significare molte cose. Nel mio caso ha a che fare sia con la combattività della propria, del proprio essere una donna, usare il corpo anche come arma, e sia essere semplicemente appunto una ragazza che fa fatica a passare il check-in all'aeroporto. Sì, io ho letto il tuo libro e ci sono molte poesie anche molto divertenti, molto interessanti che non insomma... Ti sento, mi spiace. Ah, ecco, ora mi senti? Scusami. Che, sì, ora ti sento. Ecco, scusa, è una questione di microfono. Dico, io ripeto, ho letto il tuo libro e ci sono molte poesie divertenti, interessanti. E, insomma, dici un po'... Cosa, come mai sarà la Lady Fest, con quale intenzione, con quale carica, che cosa è per te questa partecipazione? Ma per me non vedo l'ora di essere lì e spero di fare un reading con musiche originali che ha composto Giulia Nania proprio per le mie poesie. E la mia partecipazione è semplicemente dare qualche minuto, condividere con gli altri qualche minuto di poesia che è soprattutto anche oltre il contenuto è anche proprio una musica, quindi una grande un'emozione che passa più che per le parole anche per il ritmo, quindi spero di dare una cosa bella al pubblico che mi segue tutto. Ah, e niente, no. Io volevo fare una domanda a Francesca. Francesca, hai in mente... Io ho letto tutto, sono una grandissima fan, nel senso che appunto mi ci sono ritrovata molto su tante cose. Volevo sapere se hai in mente di... Cioè, se hai sostanzialmente in mente di pubblicare un altro libro di poesie o se la poesia è solo stato... Cioè, la poesia che tipo di spazio ha nella tua... Per me la poesia è la cosa più importante, più bella che faccio nella mia vita, quindi sicuramente pubblicherò ancora libri di poesia. Okay. Però non a breve, perché più o meno le mie poesie, cioè la costruzione di un libro richiede almeno un 5-6 anni, perché i miei libri di poesia sono strutturati come un canzoniere, cioè sono delle poesie esperienziali, e quindi vanno di pari passo alla mia vita, quindi io non riesco a farle. Chiaro, ci devono succedere cose. E quindi sicuramente ci sarà un prossimo libro, ma è ancora lo sto ancora scrivendo, ci metterò ancora un po' di tempo. Comunque domani sera le poesie che leggerò sono quasi tutte poesie inedite, che non sono ancora state pubblicate. Ok, ah, bene, fantastico. Bene. E niente, io penso che potremmo intanto sentirci proprio queste poesie, diciamo. No, non è vero. La musica in realtà ci sentiamo solo ed esclusivamente, non sentiamo te perché ti sentiremo live. E mi dicono che invece ci sentiamo la musica che accompagna, la musica appunto di Giulia Nania e di Marta Venturini. Giulia Nania, che la salutiamo affettuosamente, è una grande artista a cui vogliamo molto bene, e ci sentiamo questo pezzo, Balena. Va bene. E ti ringraziamo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie. avanti con il sabato velocemente perché il tempo stringe. E quindi sabato dalle 5 alle 7 ci sarà un tavolo a cura di Orgogliosamente su corpi rivoluzionari, corpi rivoluzionati a cui vi invitiamo a partecipare. Mentre dalle 7 ci sarà un'anteprima del, diciamo, del nuovo film di Émilie Jouvet, che è una filmmaker e fotografa francese. Il film si chiama Too Much Pussy e sarà nello spazio cinema. Si tratta di un documentario su 7 donne che nel 2009 hanno viaggiato con i loro camper per l'Europa per presentare le loro performance in diversi club di Parigi, Berlino, Stoccolma e altre città. Sono delle attiviste, delle artiste, delle writers, delle musiciste, delle sex workers e delle porno star. Sono nate dalla rivoluzione femminista pro-sex, iniziata negli anni '80 da Annie Sprinkle e da Carol Quinn. Provengono quasi tutte dagli Stati Uniti e da altri paesi europei e il documentario tenta proprio di raccontare come queste artiste siano riuscite ad intrecciare attraverso la loro libera interpretazione del genere, la pornografia e l'arte, la performance e la realtà e, diciamo, il personale e il politico. Ok, invece cosa succederà la domenica? Allora, so che abbiamo poco tempo, quindi dico solo due cose al volo. Sulla domenica volevo segnalare il workshop Il corpo e il suono, a cura di Francesca Fini, che è un laboratorio di interaction design. Sostanzialmente, così come per il VJing, possiamo fare applicare dei video sul corpo e attraverso un software che si chiama Isadora. Francesca ci spiegherà come sostanzialmente interagire con suoni e video attraverso l'uso del corpo e della voce. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire sulle installazioni permanenti è il video mapping che ci sarà sulla stalla della torre, che è appunto lo spazio dedicato al cinema, che è a cura della nostra crew interna. Sulla domenica, appunto, abbiamo già detto della Celletti, che ci abbiamo avuto ospite prima, e soprattutto, e possiamo assolutamente, vi segnaliamo alle 22:30 Alos con una, e alle 20 Elina Tali, che è anche interna al progetto della Ladyfest, che adesso ascoltiamo. Knowing say to my face. E allora, Mamma Trona sta quasi finendo, però vogliamo dare un attimo una delucidazione su una tematica importantissima dell'Edifest. Il post-porno non è mercificazione del corpo, per niente, anzi è una riappropriazione dell'immaginario pornografico per veicolare altri contenuti che sono nostri e che sono diversi totalmente da quelli mercificati e che ci vendono. E qualsiasi altro dubbio, venite all'Edifest e scoprirete quanto non abbiamo niente a che vedere con mercificazione del corpo e mainstreaming. Ok, e per questo appunto andiamo verso la chiusura. Vorremmo ricordare anche due artiste importanti che saranno presenti alla festa. Sì, sono una, Pidoka Krach, che è la guest straniera del sabato, che viene da Berlino, che appunto farà un live a Luna di sabato e poi... sempre il sabato alle 9... La domenica. La domenica alle 9.20, scusate, nello spazio Palco Piccolo ci sarà Tony. Una voce rarefatta e preziosa, una chitarra elettrica, piano, batteria per un live minimale. Altre artiste che solo per mancanza di tempo, non per importanza differente, non abbiamo approfondito, ma ci teniamo a nominare: Romina De Novellis, Lilith Primavera con la sua perfo Il sogno della ginoide, Iva and the Toy George, Amelie che farà un DJ set il sabato, Ramide, Kiss and Drive. E allora chi ne ha più ne metta. E adesso ci concludiamo questa bellissima trasmissione con queste tantissime ladies, con questo telefono che continua a squillare. Ricordiamo il sito della Ladyfest: www.ladyfest-roma.noblogs.org. E se avete camere d'aria da biciclette bucate, portatele, che ne facciamo frustini la domenica pomeriggio all'una. E quindi tutte e tutti possono partecipare alla Ladyfest, un festival aperto, un festival autogestito e autoprodotto. Ingresso alla Ladyfest a sottoscrizione 5 euro dopo le 20, veramente un costo basso per il festival stupendo che stiamo assistendo e che ha animato questa trasmissione. E ora siamo arrivate alla fine, quindi vi salutiamo con una grande artista, con una grande stella del panorama underground, che sarà alla Ladyfest. Quando? Sempre sabato in chiusura. Vediamo se capite chi è, però ve lo possiamo anche dire: è la grande Lady Maru. Maru, bella Maru. Un grazie a tutte le ospiti di oggi. Ciao.